Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi, tifoso romanista, in regia. È la sua puntata, sarà la sua puntata, perché ho intenzione oggi di capirne di più anche alla luce del monologo di Ranieri di oggi, che poi vi faccio sentire qualcosa in più, e soprattutto sentire la vostra opinione sulla situazione della Roma, che sta vivendo un déjà vu in piena regola. Siamo tornati indietro di 12 mesi e adesso domani pomeriggio Roma-Bologna, ci sarà da divertirsi. Risultati di B, cronaca, partite appena finite, ve li do al volo. Albino Leffe, Crotone 1-1, Ascoli Empoli 0-0, Cittadella Frosinone 1-1, Grosseto batte Piacenza 1-0, Livorno Porto Gruaro 0-0, la Regina asfalta il Modena 4-0, Siena batte Atalanta 1-0, la partita più attesa, derby piemontese, lo vince il Torino sul Novara 1-0, Triestina Padova 0-0, ieri Varese Pescara 1-1. Prima smazzata d'Europa, e arrivano un sacco di due di picche per il calcio italiano. Nessuno è andato così male tra le grandi potenze europee. Come sapete, solo l'unica carta decente, quella del Milan, non è un asse, ma massimo un 7 bello, ma neanche 7 bello, un 7 brutto, perché il Milan non ha certo giocato bene, non ha certo incantato con l'Auxerre, però è stata l'unica vittoria. Poi 4 pareggi, 2 sconfitte, quelle di Roma e Palermo, e già ci interroghiamo soprattutto sulla Roma. Massimo Callegari, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio. Brutta settimana, brutta eurosettimana, tanto per cominciare, Massimo. Dicevo. In Europa? Sì. Sì, beh, soprattutto come sempre nella seconda competizione, nel senso che non so se il tuo ente contro l'Inter va anche il Cesena contro il Milan, per entusiasmo, velocità, difficoltà della squadra favorita. Sì. Il Milan con l'Auxerre ha avuto... Secondo me il Cesena in questo momento vale più dell'Auxerre, non avrebbe perdonato il Milan nel primo tempo. Giaccherini non avrebbe perdonato il Milan nel primo tempo. Può darsi, questo è possibile. La Roma aveva poche possibilità dal mio punto di vista, non è che parlo adesso perché parlo dopo il risultato, però al di là dell'assenza di Ribéry e Robben era una squadra che aveva già delle difficoltà, e la delusione vera è in Europa League, perché comunque lo Sparta Praga era stato eliminato dallo Žilina, che è stato distrutto dalla Chelsea in Champions, e l'Utrecht è una squadra di medio livello del calcio olandese, il Lech Poznan non è una squadra che può impestire la Juventus, certo. La figura migliore l'ha fatta la Sampdoria, però. Sì. Però anche lì il bilancio è in deficit, 8-0-0-24, sì. 0-0-24 per intervenire, un buon Real Madrid contro l'Ajax, ho visto il miglior Real Madrid della stagione, si diceva, condivido, Mourinho già con la faccia giusta, poi chissà se va a fare il CT del Portogallo gratis così, per amore di patria e di bandiera, non credo che lo farà, anche perché il Real Madrid gli toglierà questa incombenza vietandoglielo. Però il Real Madrid cresce. Sì, io ero lì a Bernabeu, ti devo dire la cosa che mi ha colpito, quasi direi dire quasi ammaliato, se non fossi consapevole del valore dell'Ajax, che l'ha limitato anche perché gli mancavano dei migliori giocatori, tra cui Suarez. La cosa che mi ha veramente colpito è il fatto che la squadra ha già un'identità di gioco, che è costruita sulle caratteristiche dei giocatori che Mourinho ha adesso, e effettivamente è un lavoro dal mio punto di vista eccezionale. Poi magari è stato un momento, e con la Real Sociedad questa sera tornano a giocare un calcio un po' meno articolato e meno divertente, però è una squadra completamente diversa da quella che era l'Inter, da quello che era il Chelsea, dove Mourinho ha lavorato per anni. Qui lavora da poco tempo, da poche settimane, con tanti giocatori venuti dal mondiale. Noi parliamo, giustifichiamo magari l'Inter perché molti giocatori arrivano dal mondiale, ma sì, lì ce ne sono diversi e sono stati tra i migliori, Xabi Alonso e Ozil su tutti. Sì, no, ma comunque è già una squadra logica quella di Mourinho, quindi da questo punto di vista io vedo un Real in crescita. Poi vediamo, aspettiamogli i riflessi del campionato da oggi. C'è Silvia che lancia un messaggio, 349-238-6666: il Milan non vale l'Inter, non ha difesa né centrocampo e soprattutto panchina. Sono d'accordo sul fatto che in valore assoluto il Milan non valga ancora un Inter, che rimane la squadra più attrezzata. Sull'Inter io continuo a pensare, lo diciamo domenica scorsa, insomma, credo, mi sembra che Benitez abbia tanta voglia di metterci del suo. Secondo me dovrebbe andare un po' di più con la squadra che Mourinho gli ha lasciato, anche come disegno. Poi ci sarà tempo per vedere l'Inter di Benitez. Invece la Roma che cos'ha, Massimo? No, io sorrido perché quest'estate quando ero lì sul tuo scran, sì, sono stato un po' attaccato, no? Perché sì, vedevo così, ma in maniera molto onesta intellettualmente, una squadra che aveva più svantaggi che vantaggi da acquisire in questa stagione, perché sì, aveva più pressione rispetto all'anno scorso, in più aveva ricevuto poi negli ultimi giorni di mercato i due giocatori che l'allenatore aveva chiesto. L'acquisto di Adriano, ribadisco, rimane un errore o qualcosa di incomprensibile per caratteristiche tecniche del giocatore, per quelle di Totti, e poi c'è proprio la gestione del rapporto con Totti, che mi ricorda quella del rapporto con Del Piero. Bravissimo. A Torino. Ma certo, ma sono giocatori molto difficili per un allenatore, eh. Sono giocatori che hanno in mano l'opinione pubblica intorno alla società, al club. In questo caso mi sembra quella la cosa veramente sbagliata. Sì, hanno in mano anche Artotti, ha in mano anche la società, nel momento in cui si prende l'iniziativa può anche comunicarla, come sì, è stato scritto ufficialmente. Sì. Però si prende l'iniziativa di parlare nel momento in cui la società, come prima detto, nessuno parla al di là dell'allenatore. Certo. Massimo, ti ringrazio, buon lavoro. Alla grazie prossima. A voi, buona domenica. Grazie a Massimo Callegari. E di questo voglio parlare, vorrei parlare anche con voi, 800 24 00 24. Adesso abbiamo il traffico, subito dopo vi faccio sentire cosa ha detto oggi Ranieri, che non ha accettato contraddittorio con la platea, con la sala stampa. Questo non mi sembra un gran segnale di sicurezza. Faccio io, inizio io e concludo io, va bene? Visto che ho letto, ho sentito tante cose, vorrei dire la mia realtà, parlando ai tifosi, così sono molto chiaro, molto diretto. Sapete che sono stato sempre leale in tutto e per tutto. Ci sono cose che non vanno bene, i risultati, non stiamo giocando bene, non è una scusante, siamo andati a Monaco, non abbiamo fatto la partita che volevamo fare molto di più. Non è questione di giocare in difesa o giocare all'attacco, volevamo giocare per vincere, quello che abbiamo sempre fatto, non ci siamo riusciti, siamo andati a Cagliari, abbiamo perso a Cagliari, le responsabilità sono dell'allenatore, io non mi tiro indietro, non mi sono mai tirato indietro nella mia carriera, figuriamoci se mi tiro indietro a Roma, a casa mia, da tifoso. Sotto questo punto di vista non ci piove. Totti, ho letto che era contro di me, cose più assurde non potevano essere state scritte. Già l'ho detto l'anno scorso, questo è uno spogliatoio di persone sane, di giocatori sani, che vogliono fare del proprio meglio. Ci sono delle volte che ci si riesce, delle altre volte che non ci si riesce. Ho un rapporto leale e sincero con tutti i giocatori. Figuriamoci con il mio capitano. Figuriamoci con chi è una vita che sta qua, ha fatto mille infortuni per la sua squadra. Io che sono romano e romanista non lo capisco. Posso sbagliare alcune volte a farlo giocare, alcune volte a non farlo giocare, alcune volte a levarlo, alcune volte a farlo restare in campo il più del dovuto. Me ne assumo io le responsabilità. Io sono il capo, io sono il loro allenatore. Tutto quello che faccio lo faccio per la Roma, a fin di bene per la Roma. Può venir bene, può venir male. Dopo è facile parlare, dopo è facile. Io le cose le faccio prima, in base a tutte le informazioni che ho, in base a tutto quello che succede durante la settimana. Ranieri di oggi, Paolo Liguori, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori Radio 24. Sembra anche a te un déjà vu, si torna indietro di 12 mesi? Ma no, Ranieri, quello che ha detto è utile, secondo me, non si torna indietro. Lui ha la credibilità di questi ultimi 12 mesi che ha guidato la Roma lui, e quindi ha la credibilità per dire le cose che ha detto. Indietro non si torna, si è sempre rimasti fermi da un certo punto di vista per le questioni che riguardano la società, e ho timore che dietro questa mancanza di come si può dire, coesione e di ripresa, ci sia molto questa incertezza sulla proprietà della Roma, perché quando c'è un proprietario poi ci sono tutti al loro posto, manager, tecnici, giocatori, e tutti sanno quello che devono fare e a chi devono rispondere. Oggi la Roma è da un anno che risponde a se stessa, insomma, l'anno scorso Spalletti andò via dicendo non ho la proprietà alle spalle, non me la posso, non me la sento. Ranieri se la sentì perché era anche romano, romanista, e lo sappiamo tutti che ha fatto il suo lavoro con competenza e generosità, e però adesso Ranieri pure si trova lui a dire faccio io, faccio tutto io, avete sentito come ha esordito, perché non c'è nessun altro, c'è la presidente, la Sensi, ma provvisoria, c'è qualcuno che dovrà arrivare. Penso che bisognerebbe un pochino far capire anche ad una banca che ha tutti i diritti di far valere la proprietà della Roma al meglio possibile, che però se non si sbriga si logora questa proprietà. Sicuro, non c'è dubbio. Non si è mai vista, è un miracolo quello che è già stato fatto a Roma, non si è mai vista che una delle componenti, la principale delle componenti, società, squadra e allenatore, la principale, la società, non ci sia, non si è mai vista, e che per un anno, questo è la Roma al secondo posto l'anno scorso, secondo me, nella mia visione, ma mi hanno sempre criticato per averlo detto chiaramente, ma è come quei cavalli del Palio di Siena che arrivano scossi, che arrivano secondi senza il fantino, insomma. Ma io condivido, perché non si può vivere sempre nell'incertezza e sul campo, direttore, allora, non si può vivere sempre rincorrendo. Pensate alle persone che giocano nella Roma, come sono state messe insieme, no? Quest'anno in una prima fase del mercato, prima di tutti gli altri, la Roma si è accaparrata due giocatori di grande nome anche, ma perché l'ha presi? Non perché magari tatticamente fossero indispensabili, ma perché erano gratuiti, sia Adriano che Simplicio. E lì si prefigura un certo modulo. Poi a fine mercato, quasi alla fine, proprio alle ultime ore, nelle ultime ore ha preso due giocatori fondamentali, uno perché lo voleva confermare Burdisso, grande sacrificio economico, e l'altro Borriello, sacrificio diciamo ascritto al prossimo proprietario, perché i soldi sono dell'anno prossimo a venire, soldi sono molto di chi verrà, un grande acquisto, però come dire, la somma di questi acquisti non dà una strategia, non si capisce se con Totti e Okaka rientrato e Vucinic in campo, l'acquisto di Borriello e Adriano prefigura una Roma di 4-4-2 o una Roma di 4-2-3-1, capito? Sì, Ranieri sta provando, si capisce, è come se fossero stati messi assieme intanto per averli e poi certo, si vede. Ranieri sta provando a cambiare la pelle tattica della Roma, ma non è un'operazione semplice, anche perché c'è Totti, la tua su Totti. Ma Totti la tua è posizione alla Roma, Totti è un giocatore, Totti è l'anima di questa Roma. Quando ho detto che è come il Palio di Siena che arriva al cavallo scosso, Totti è il cavallo, non è Fantino, se levi quello è finito. Però sono giocatori molto difficili, ne fai bistecche, capisci che però per un allenatore è un problema, può essere un problema però per un allenatore, perché no, probabilmente adesso la Roma non può permettersi, la Roma in queste condizioni non può permettersi un Totti non al 100%, vale il parallelo con Del Piero a Torino. Se per un allenatore Totti è un problema, quell'allenatore si deve curare, deve trovare un buon medico, si cerca un buon medico e poi dice ho un grosso problema, che è di avere Totti in squadra. Totti è la Roma, quindi io penso che un allenatore che viene a Roma e che dice per me Totti è un problema, è meglio che sta a casa sua, ma non è il caso di Ranieri. Ranieri lo sa, Ranieri ha fatto un accordo molto forte con Totti l'anno scorso, lo ha rilanciato quest'anno, perché una critica per una partita non vuol dire niente, e poi avete visto che è subito rientrata, quindi Ranieri è troppo intelligente per avere il problema con Totti, non c'ha problema di nessun tipo, né Totti può avere mai problema con la... Naturalmente Totti gioca con tutti, Totti può giocare con Borriello, se gli altri sono in condizione Totti fa sempre la sua, però è ovvio che a Cagliari è stato levato per una scelta tattica, una scelta tattica che insomma, dovendo levare un giocatore, io personalmente non avrei levato lui, ma probabilmente per le sue condizioni l'ha voluto risparmiare. Tu come tutti i romanisti, tu come tutti i romanisti non avresti levato Totti, sai. Anche come tutti quelli nel mondo che non siano un po' che non abbiano dei pregiudizi su Totti. Nel mondo i giocatori che hanno quel livello là si contano sulle dita della mano. Qua non stiamo parlando del campione di oggi, qua stiamo parlando del campione di 20 anni, no? Sono d'accordo, stravedo per Totti, è sempre stato così. Prima di salutarti, ringraziandoti, volevo però farti sentire una intervista, non riguarda la Roma, riguarda un altro argomento di questi giorni ed ero molto curioso di sentire la tua. Intervista è questa, l'ha realizzata Dario Ricci con Massimo Oddo questa mattina. Il braccio di ferro non è sicuramente nostro, la nostra presa di posizione è una conseguenza. Quello che ci dispiace di più è che il messaggio è passato male da parte degli organi di informazione, c'è stata un po' di mancanza di professionalità perché non si è ben capito, sono ben capite quelle che sono le nostre richieste, e è passato subito il fatto a livello economico, ma a livello economico non c'è assolutamente niente. Magari la cosa che si può dire è che potrei invitare tutti gli organi di informazione, che sono uno strumento importantissimo e fondamentale per spostare le masse da una parte all'altra, magari essere un po' più professionali. Forse magari ha un po' irrigidito il clima anche il fatto di aver proclamato lo sciopero prima di sedersi al tavolo delle trattative. È proprio questo che è sbagliato, perché questo fermarsi è una conseguenza. L'accordo era già accaduto un anno fa e noi è un anno che chiediamo richieste, quindi non è assolutamente come è stato passato. A questo punto martedì però si potrebbe arrivare a una quadratura del cerchio, a una soluzione? Non lo so, dipende dalla Lega, noi siamo apertissimi al confronto, lo siamo sempre stati, quello che abbiamo sempre chiesto da un anno a questa parte è l'apertura da parte della Lega. Naturalmente è colpa dei giornalisti anche in questo caso. Io l'ho già detto, lo ripeto, è una mia opinione personale, lo sciopero come strumento di rivendicazione è una cosa così d'antiquariato che forse può funzionare ancora solo quando assume contorni caricaturali, come in questo caso. Direttore. Ma guarda, io sono allibito, qua ormai hanno capito che lo sciopero è un'arma, diciamo, del secolo scorso, hanno capito gli operai, lo hanno capito gli impiegati, lo hanno capito i dipendenti di ogni tipo, soltanto i calciatori, li senti dire ancora queste fesserie che dovrebbero muovere i mezzi di informazione, dovrebbero muovere le masse a fare cosa? A sostegno della loro rivendicazione, ma lo sciopero dei calciatori quale bene tocca? Vogliamo dirlo? Tocca il divertimento del popolo, no? Sì. Quelli che guardano il calcio. Allora, uno che dice, mi ricordo qua una famosa commedia greca, per chi è andato al liceo e ha studiato, in cui si diceva lo sciopero delle donne, insomma, lo sciopero di Sistrata e lo sciopero delle donne. Adesso andatevi a rileggere quelle pagine assolutamente, diciamo, ironiche, di Aristofane, che era uno dei più grandi commediografi dell'antica Grecia, e ci trovate tutto il ridicolo di questa posizione. Guarda, io penso che i mezzi di informazione italiani hanno tante colpe, ma guarda, non sono arrivati così in basso da non capire la profondità delle rivendicazioni dei giocatori. Sì. E che questa profondità è solo nel cervello, diciamo, un po' disturbato di chi racconta queste cose. I giocatori hanno un braccio di ferro con la società, che lo facessero, ma che non dicessero scioperiamo, ma contro chi sciopera, ma perché sciopera. Secondo me, se sciopero i calciatori, uno è autorizzato a vederne uno per strada e a metterlo sotto con la macchina, ma renditi conto. Cioè, stai scioperando quando negli ultimi anni ci sono società indebitate per eccesso di spesa e i tre quarti di questa spesa, se non di più, sono finite nelle tasche monte dei stipendi, calciatori. Monte stipendi. Allora, se noi diciamo agli imprenditori, signori, oggi voi siete in crisi, però state piangendo troppo, perché quando avete guadagnato non avete messo da parte i soldi per affrontare questo momento e ora non dovreste scappare dalle aziende ma investire, noi non possiamo trattare i calciatori come se fossero degli affamati. È vero, dice lui, non chiediamo soldi, ma chiedono libertà contrattuali, che gli hanno sempre permesso di farli questi soldi, quei nuovi dei contratti, quei procuratori. Io non sono moralista, quindi loro guadagnano per quanto offrono, no, ma questo spettacolo. Ma assolutamente, ma proprio perché assolutamente non sono moralista, di fronte a uno che io giustifico e dico paghiamolo per quanto mi fa divertire, il momento che questo si monta la testa e mi dice sai che c'è, adesso io sono in lotta e siccome sono il nuovo proletario dico che non ti faccio più divertire, ma lo schiaccio con la macchina se lo incontro. E comunque detto questo, ammettiamo la colpa, non li abbiamo capiti. Come facciamo a dire a quelli di Pomigliano che devono fare il turno il sabato quando ci sono dei giocatori che fanno queste robe qua? Cioè, fa ridere, no? Sì, sì, ma fa ridere, ma ridere. Assolutamente. Stiamo facendo un dibattito in Italia, se la Fiat ha ragione, non ha ragione a chiedere i contratti liberi, se non fare le cose in Serbia, e abbiamo i giocatori che dice noi abbiamo questa cosa contrattuale che non ci piace, e va bene, siamo d'accordo, possiamo... però noi facciamo lo sciopero. Ma io ti do quattro schiaffoni. Camafare, non li abbiamo cosa dobbiamo fare? Non li abbiamo capiti? Colpa nostra, non li abbiamo capiti. Non riusciamo a capirli. Ha presentato questa cosa all'opinione pubblica in maniera da farci detestare. Sì. Non ha capito. E la stampa muove le masse. Ma che dico? Loro muovono le masse la domenica, le vere masse. E se non le muovono più, è normale che queste masse si rivoltino contro di loro. Sì. Questo lo deve sapere un giocatore che vive di quell'emotività e di quella passione che molti approvano e molti altri addirittura dicono che è eccessiva, ma che devono sapere che scatenando queste passioni, se levi poi all'improvviso l'oggetto del divertimento, quelle masse gli si rivoltano contro, no? Ma è un meccanismo assolutamente, è come i grandi dittatori che finiscono linciati. Certo, muovono le masse, certo. E poi le masse e poi le masse si arrabbiano. È logico. Grazie direttore. Arrivederci. A presto, grazie a Paolo Liguori, bella chiacchierata. Magari torniamo a parlare anche con gli ascoltatori di questi temi. 800 24 00 24, il numero verde, quello che ho detto io. Scrive un ascoltatore via SMS: lo sciopero è così antiquato che nel calcio funziona e si adatta perfettamente. Appunto, è quello che stavamo dicendo. C'è anche chi, come Paolo, sempre via SMS, scrive: uno che non gioca da 3 anni, Oddo, e prende dei monumenti, e che monumenti, ma che referente può essere? Eccoci tornati, ho ricevuto qualche messaggio carino, tipo questo: ha ragione Oddo, siete abili a travisare la realtà su tutto, si sa dai tempi di Goebbels. Immaginatevi un po' che simpatia. 349-238-6666, tra poco comincio anche a parlare con gli ascoltatori. Secondo me, insomma, almeno quello che ho capito io è che almeno da un punto di vista mediatico questo sciopero proclamato, insomma, sia stato un autogol mediatico da parte dell'associazione calciatori. Io però vorrei tornare all'argomento Roma per un attimo, per farvi sentire qualche altra voce da tribuna giallorossa, VIP, qualche parere, giusto per capire da che parte sta l'ambiente giallorosso. Giorgio De Luca ha raccolto questi pareri, partirei da Lando Fiorini. Per me ha ragione Totti, si possono perdere partite ma anche cercando di vincerle, perché se ci siamo soltanto difesi, questa è la realtà. Io non sarei tanto pessimista, perché, ma non è che mi consolo perché anche le altre squadre vanno male, siamo inizio, c'è da sistemare qualcosa, però ha perfettamente ragione Totti, se abbiamo anche i giocatori adatti per fare un certo tipo di gioco, però l'altra sera siamo soltanto difesi, non è stata una bella cosa. I tempi del catenaccio di una volta, però bisognava anche farlo, perché l'Inter che ci ha vinto le coppe intercontinentali però aveva dei giocatori per il contropiede come Jair, Peirò, anche se vinceva 1-0, però era un catenaccio fatto in modo diverso. Io sono d'accordo con Totti, secondo me perde le partite però provando anche a vincerle. Tutti con Totti, restiamo nel mondo dello spettacolo, anche Enrico Manzina. La Roma in questo momento non sta vivendo un momento d'oro, come mai? Ma i tifosi romanisti sono abituati a tutto, è tutta la vita che ci domandiamo come mai quando dobbiamo essere forti siamo scarsi e quando siamo scarsi diventiamo forti. È intervenuto Totti e credo che ha ragione in parte, perché la partita di Monaco, premettendo che il Monaco è una squadra formidabile, insomma giocano veramente bene, senza Robben e Ribéry hanno fatto una partita strepitosa, sono dei grandi atleti preparati, ci mettono il cuore, il vigore, però detto questo, insomma, dopo un primo tempo discreto abbiamo fatto una magra figura nel secondo tempo, per la solita mentalità italiana di chiuderci, e qui ha ragione Totti, non può giocare, oltretutto non è un ragazzo di 22 anni, se gioca avanti insieme a Borriello c'è sempre qualcuno che cuce lo strappo che c'è tra l'attacco e il centrocampo, ecco, insomma, forse giocare con una mentalità più offensiva, pensando di poter segnare, entrare in campo pensando che la Roma è comunque la seconda squadra del campionato italiano e quando arriva da qualche parte un po' paura mette, però se paura non la mettiamo poi non serve a niente, per cui io credo che ha ragione lui, dobbiamo cominciare a giocare per segnare dei gol, perché poi il calcio è quello, bisogna buttarla dentro. Sì, sarà anche vero però che un discorso più tattico, più tecnico ci porta a dire che, come gli allenatori insegnano o quelli che hanno giocato a calcio insegnano, se non hai una squadra che sta bene, che è in condizione, primo non prenderla, primo sistemare la fase difensiva. L'ha detto, mi pare, anche Paolo Rossi l'altra sera nello studio di Sky subito dopo le partite. Se hai una squadra in difficoltà, allora grande attenzione, allora forse non puoi permetterti un giocatore in una squadra non in condizione, un giocatore chiaramente non in condizione come Francesco Totti. Forse è questo un discorso tecnico e tattico che si potrebbe fare. È chiaro che non è un giocatore qualunque, è Francesco Totti e lui è la Roma, come ben potete capire, no? Come ben sapete. 800 24 00 24, numero verde, ascoltatori. Maurizio da Firenze, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, volevo soltanto, la mia era più una precisazione in relazione a quello emerso dallo sciopero dei calciatori. Sì. Condivido assolutamente in pieno sia quello che ha detto il direttore che anche appunto in trasmissione sulla preistoricità di fare lo sciopero, insomma. Dello sciopero in valore, esatto, assoluto. Quindi proprio non sta in piedi come rivendicazione, insomma, per una cosa di questo genere. Devo però anche ammettere, ed è qui la precisazione, che io da lettore, perciò quindi sì, sfoglio i media e quant'altro, in un primo momento è emerso che in effetti lo sciopero era basato sul fatto economico, secondo me, almeno io quello che ho potuto cogliere. Quindi sì, poi c'erano anche molti altri aspetti piuttosto difficili da comprendere, all'aspetto esatto, delle cure sanitarie, per cui ti devi far curare dai medici della squadra, se vai da uno specialista di fiducia paghi tu. Questo era uno dei punti. L'altro punto che trovo incomprensibile è questa clausola di queste clausole di comportamento che mi sembrano assolutamente legittime. Basta aprire tutti i giorni i giornali, no? Insomma, tu dai tanti soldi a un giocatore, ma anche qui io sono tutt'altro che moralista come Paolo Liguori, quindi non me ne importa nulla di quelli che guadagnano, di quelli che guadagnano i calciatori, perché sono leggi del mercato queste. Però se quello va con le signorine, poi c'è quell'altro che va in moto e si schianta contro il palo, quell'altro ubriaco che piscia per strada, insomma, se vogliamo imporre da parte del datore di lavoro che sgancio di quei soldi delle clausole di comportamento, non ci vedo niente di perverso. Intanto Vincenzo Nibali ha vinto la Vuelta di Spagna, questa notizia fantastica, ve la mollo lì. Maurizio, è d'accordo? No, non tanto. Cioè? Non riesco a dire come uno sport professionistico, fatto da professionisti, guadagnano fior di milioni, debba essere ancora concepito ti controllo fuori dal tuo orario di lavoro. Non è tanto questione di controllo, però. Non è tanto questione. Non è tanto questione di controllo. Io le ripeto, io sono utente, quindi leggo i giornali. Io leggo che la rivendicazione è sul fatto che la società professionisti chiedono a dei professionisti: tu mi devi dire cosa fai fuori dall'orario di lavoro. Ma non è tanto un tu mi devi dire cosa fai fuori dall'orario di lavoro, comportati in maniera civile, perché sennò finisci per danneggiare magari anche il club e anche l'immagine del club, eccetera eccetera eccetera. Quindi sono normali, cioè, se insomma, ma penso che siano clausole non scritte che valgono per qualunque lavoratore in qualunque ambiente, no? Al di là del calcio. Quindi insomma, mi sembra anche legittimo volere chiedere un comportamento corretto. Non è tanto una forma di controllo, mi pare di leggere, insomma. Maurizio, la ringrazio, andrò avanti a parlare con lei, ma ho anche Mario da Verona e poi c'è Andrea Zorzi. Mario. Sì, buonasera. Intanto vorrei sgombrare subito il campo da possibili equivoci. Non sono un calciatore, sono un umile autista di autobus, quindi ecco. Vorrei però fare una lancia a favore dei calciatori. Sì. Intanto la settimana scorsa, essendo un vostro assiduo ascoltatore, Garanzini ha fatto un'ottima puntata su questo argomento ed è emerso che effettivamente ci sono tante ragioni da parte dei calciatori. veramente tante, perché al di là di tutto questi sono degli uomini, quindi voler imporre dei trasferimenti a tutti i costi mi sembra un tantino esagerato. Dopodiché mi chiedo, è vero, guadagnano fior fiori di euro, ma sono pur sempre dei lavoratori, quindi avranno dei loro diritti. Ma certo, ma questo non lo mette in dubbio nessuno. Probabilmente anche sulla storia, però Mario, anche sulla storia dei trasferimenti, adesso non anche qui non bisogna forzare le cose, perché anche sulla storia dei trasferimenti, dall'altro lato ci sono giocatori che tengono in ostaggio le società, che vanno a rinegoziare il contratto immediatamente dopo la fine della stagione. L'ha fatto di recente Milito, ma l'aveva fatto Maicon, no? Ho fatto una buona stagione, ho appena firmato il contratto, però dammene un po' di più, perché sennò magari vado da un'altra parte. Ci sono giocatori che, Julio Baptista ad esempio per la Roma, no, io di qui non mi muovo, non c'è verso, mi dai tutti i miei soldi, poi non mi fai giocare, sono fatti tuoi. Preferisco non giocare. Questo è un atteggiamento anche discutibile, se vogliamo, no? Anche discutibile guardando le cose nella prospettiva della società, no? Io non voglio giustificare questi comportamenti, e ben vengano eventuali stipendi anche basati su un fisso più dei premi, sia ben chiaro. Però ripeto, come disse un attimino, se non sbaglio, Schwarzenegger, per evitare gli incendi tagliamo gli alberi. Insomma, francamente non credo sia un sistema opportuno. Andiamo a rivedere sicuramente alcune normative, ma non per questo imponiamo a delle persone che magari si sono fatte famiglie, abitudini e consuetudini in una città di spostarli dove come si vuole. Ecco, questo qua io tengo. Sì, Mario, però sì. È parte integrante della professione, no? Questo essere costretti a frequenti traslochi. Io ringrazio Mario al traffico subito dopo, però voglio a partire da questi argomenti, uno che il giocatore professionista l'ha fatto al massimo livello, come Andrea Zorzi. Andrea Zorzi, ciao! Ciao, ben ritrovato Carlo. Ben ritrovato. Dalla prossima settimana, già ve lo dico, vorrei chiedere ad Andrea Zorzi di mettere ogni sabato la sua Z sul personaggio più cool della settimana sportiva. Lo sceglierà lui, naturalmente, e poi vedremo di parlare insieme. Ma oggi restiamo in argomento. Sciopero. Sì, volentieri, argomentone poi, tra l'altro, nel senso che per quanto riguarda il discorso dei calciatori in modo particolare, visto che di quello si parla, perché è abbastanza complicato fare paragoni con altre discipline, anche io fatto professionista in altri tempi, in un altro sport, e lì è un po' più facile capire come regolarsi, ma nel caso del calcio il problema è che è un mondo così grande, così vasto, che è difficile capire quali siano le persone a cui ti rivolgi. Si passa dai 9 milioni di euro all'anno di Ibrahimovic ai pochi euro che forse che portano a casa altri giocatori, entrambi calciatori, quindi è difficile trovare una regola che vada bene per tutti. Beh, ma pochi non lo so, Andrea, quantomeno a livello professionistico, semiprofessionistico, insomma. L'altro giorno leggevo geniale fondo di Massimo Gramellini, che diceva sì, per quanto poco possano guadagnare i calciatori di Serie C, è sempre uno stipendio superiore a quello di un qualunque buon laureato che ha un lavoro normale, magari anche importante. Sì, è corretto, questo è corretto. Adesso fammi fare per un attimo la difesa o la parte del diavolo. È anche vero che poi un calciatore a 30 e pochi anni in più smette di giocare o ha accumulato, oppure è una persona avanti con gli anni con poche competenze che deve fare ancora un bel pezzo di strada, quindi in realtà occorre pensare anche a questa prospettiva. Però ripeto, non voglio seguire a dire adesso che noi sportivi professionisti siamo quelli che hanno poche opportunità. Trovo invece sia molto complicato sperare che una qualunque regola o legge da sola sia in grado di regolamentare tutti gli aspetti diversi. Questo è assolutamente da scordarsi. Occorre, come sempre, trovare un patto, trovare una modalità di comunicare, di gestirle, perché non si possono controllare le persone che sono maggiorenni. Allo stesso modo hai il diritto di pretendere da loro un comportamento che sia professionistico. Sì. Cosa significa? Che se lui va fuori la sera subriaco e poi gioca bene, va bene? No, non va bene lo stesso. Però capisci che comunque si tratta proprio di fare in modo che l'ambiente sia in grado di riconoscere comportamenti corretti. Quindi pensi che sia legittimo? Io trovo che sia fondamentale che un professionista, un gruppo di professionisti, e per questo intendo dire giocatori, ma anche dirigenti, anche presidenti naturalmente, stabiliscano con un po' più di attenzione rispetto a quanto viene adesso, che ci sono alcuni comportamenti che sono giusti. Questo può anche, io nel mio contratto c'avevo scritto che non potevo fare motocross, che non potevo fare paracadutismo, semplicemente perché erano sport abbastanza pericolosi e in caso di infortunio non è che il mio contratto veniva pagato. Certo. Quindi, insomma, voglio dire, adesso passare da uno sport evidentemente pericoloso a un comportamento morale è un passaggio non trascurabile. Quindi, insomma, bisogna vedere. Però io trovo che sia fondamentale fare sì che gli ambienti sportivi, soprattutto quelli professionistici, discutano e concepiscano in modo molto chiaro quali sono delle regole da rispettare. In modo diverso, perché c'è poi uno che alla sera va a casa alle 8, guarda il telegiornale, mangia e dorme, qualcun altro per età o per passione fa una scelta diversa, ma ci deve essere comunque un riferimento anche di natura morale, e questo ovviamente è piuttosto complicato. Sì, certo. Un ultimo punto, Andrea, era quello dei trasferimenti. Dunque, io credo che anche qui numericamente siano abbastanza pochi quelli che si sentono sballottati a forza e mai volentieri da destra a sinistra, e sono d'accordissimo con te quando dici che alla fine, quando uno fa questa attività e pian piano scopre nel corso della sua vita che sta per diventare una professione, lo mette in preventivo. Assolutamente, ti sposti. Adesso non è che devono trattarti come un pacco, come se tu non contassi nulla, però è tanto vero che ti viene un'offerta, se è vantaggiosa vai dove capita, e quindi devi mettere in preventivo di spostarsi, e che è difficile, puoi essere da solo e la cosa è anche interessante, a me piace molto viaggiare, se hai una famiglia è un po' più complicato, qualche volta è distante, è scomodo, però mi pare che tra i contro di una bellissima professione come lo sportivo professionista ci sia quello di accettare trasferimenti. Sì. Dopo mi rendo conto che in alcuni casi questo viene utilizzato come una minaccia, guarda che se non fai così faccio cos'ha. Però dicevi te, qualche volta sono i giocatori a tenere il nostro delle squadre, certo. Qualche volta sono le squadre che con le storie di contratti pluriennali hanno bloccato i giocatori, una volta c'era anche il cartellino, sì. E lì era proprio fatta e finita. Certo. Andrea, ci sentiamo sabato prossimo. Ben volentieri. Vediamo state cosa succede bene in settimana e vediamo su chi disegnerai la prima Z come personaggio sportivo della settimana, appunto. Grazie ad Andrea Zorzi. Adesso andiamo un po' di corsa e voglio darvi uno spicchio di rugby di palla ovale, perché ieri è arrivata la prima vera lezione del Celtic League con una sconfitta pesante per gli Aironi, e poi gioca la Benetton. Giacomo Bagnasco, buonasera. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti. Sì, era inevitabile che prima o poi arrivasse anche una sconfitta pesante. Dispiace forse che sia arrivata già alla terza giornata, insomma è una questione di punti di vista. In ogni caso gli Scarlets gallesi, vale a dire la squadra contro cui il Benetton aveva esordito vittoriosamente a Treviso, stavolta giocavano in casa contro gli Aironi e hanno vinto 49-10, il primo tempo 18-3, il conto complessivo delle mete 6-1, c'è poco da dire, 3 mete per Jonathan Davis negli Scarlets che rispetto alla squadra messa in campo a Treviso avevano anche alcuni giocatori di rilievo in più, quindi per gli Aironi un cammino che comunque rimane in salita, Aironi che sono a 3 sconfitte dopo le prime 3 partite, mentre il Benetton oggi pomeriggio, si può dire in avvio di serata, gioca nuovamente a Treviso, ci si aspetta di nuovo un tutto esaurito e si spera in una nuova vittoria casalinga. Certo che l'avversario è ancora più forte, si tratta del Leinster, la squadra irlandese, sì, che ha nel suo palmarès sia una Heineken Cup sia un paio di edizioni proprio della Celtic League. Ma siamo qua apposta, le nostre squadre sono qua apposta per giocare con quelli forti. Peccato che, come ripetiamo molte volte, sia stata un po' venduta male questa Celtic League. Grazie Giacomo Bagnasco, adesso abbiamo un paio di minuti per farci dire a Giovanni Capuano chi gioca e chi non gioca in questa domenica, soprattutto per quanto riguarda le big, a partire dal Milan di questa sera. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, allora partendo dal Milan di questa sera devo dirti che Allegri non ha ancora sciolto quello che è il dubbio legato alla presenza di Inzaghi e Boateng, anche se negli ultimi minuti le indiscrezioni da Milanello, Milan in viaggio verso San Siro, parlano di un Milan in cui potrebbero in realtà giocare tutti e due, solo con Boateng arretrato sulle linee dei centrocampisti e con il sacrificato che a questo punto sarebbe Gattuso, quindi una linea 3 di mediana con Pirlo, Seedorf e appunto Boateng, e davanti Ronaldinho Ibrahimovic con Inzaghi a fare da prima punta. Bisognerà però attendere l'arrivo delle squadre a San Siro, perché in quel momento Allegri farà la riunione tecnica e darà la formazione ai suoi, e a quel punto si saprà poi insomma quali saranno le scelte del tecnico toscano. Giovanni, l'Inter a Palermo senza Sneijder ma con Pandev, confermi? Sì, ti confermo, anche se in realtà non è del tutto scontato che Pandev sarà in campo dal primo minuto, perché a questo punto l'assenza dell'olandese potrebbe accelerare il cambio di modulo e portare l'Inter su un modulo più vicino al rombo, anche se oggi Benitez ha scherzato. Comunque la notizia è che non c'è Sneijder, si punta a recuperarlo per la gara di mercoledì contro il Bari, anche se in realtà il vero obiettivo è la trasferta di sabato prossimo, molto più importante all'Olimpico, contro la Roma. nel caso di 4-2-3-1 confermato ci sarebbe posto dal primo minuto per Coutinho, però oggi Benitez ha detto che questa è soltanto un'ipotesi e quindi qui si fa largo la strada, l'idea che possa giocare in realtà con il rombo a metà campo. Ancora un po' tutto in alto mare, grazie a Giovanni Capuano, noi dobbiamo chiudere al volo, grazie a Giorgio Lucchi in redazione, a Valeria Bernardi in regia, ci sentiamo domani ovviamente dalle 5 alle 7, buona serata. Tempo di sport.